Il terzo anello, ad alta voce, I viceré, di Federico De Roberto. 3 si lasciava abbracciare e baciare dalla madrigna, assaporando la lode, dolendosi della guerra tra il padre e il fratello, votandosi alla Madonna perché la facesse finire. Un giorno, però, scoppiò la tempesta tra il padre e il fratello. Questi aveva ordinato di suo capo, senza dirne niente a nessuno, 4 grandi scaffali per disporvi i suoi libri. Quando il principe vide arrivare quei mobili, fece chiamare Consalvo e gli domandò concitato: «Chi t'ha permesso d'ordinar nulla in casa mia?» Il giovane rispose con la studiata freddezza che faceva imbestialire suo padre: «Avevo bisogno di questi mobili». «Qui comando io, t'ho detto molte volte», ribatté l'altro facendo sforzi violenti per contenersi. «Non sa da piantare un chiodo senza il mio permesso. Se vuoi far da padrone, vattene via. Nessuno ti trattiene. Prendi moglie e rompiti il collo». «Ho già detto», rispose Consalvo più freddo che mai, «ho già detto allo zio che non voglio ammogliarmi». «Ah, non vuoi? Non vuoi? E io ti butterò via a pedate, bestione, facchino, animale!» «Tanto meglio», soggiunse il principino freddo come la neve. «Mi farete piacere». A un tratto il principe impallidì come se stesse per svenire, poi diventò paonazzo come per un colpo apoplettico e finalmente proruppe abbaiando come un cane: «Fuori di qui, fuori di casa mia, ora all'istante cacciatelo fuori!» La prima volta dopo quella scena che il principe udì nominare il figliuolo, gridò: «Non parlate più di cotesto iettatore, non lo nominate più, o mando via tutti!» La rottura fu definitiva. Il duca, messo a giorno dell'accaduto, venne a prendersi Consalvo e lo condusse per alcune settimane in campagna. Di ritorno fu deciso che il principino sarebbe andato ad abitare la casa che il padre possedeva alla marina. Il giovane non chiedeva di meglio. Arredò il quartiere a modo suo ed andò a starci contento come una Pasqua. Faceva adesso da padrone, non andava più a messa, riceveva chi voleva, invitava a casa sua i pezzi grossi del circolo, ai quali mostrava stanzoni tutti pieni di carta stampata. I vantaggi erano infiniti. Come un tempo aveva gettato sulla folla il suo tiro a 4, così la schiacciava adesso col peso della sua dottrina. E la gente che si tirava da canto un tempo per non restar sotto i suoi cavalli esclamando tuttavia «Che bell'equipaggio!» adesso lo stava a udire intronata dalla sua loquela dicendo «Quante cose sa!» La nativa spagnolesca albagia della razza ignorante e prepotente e la necessità ad adattarsi ai tempi democratici si contemperavano così in lui a sua insaputa. In mezzo alla massa ignorante della nobiltà paesana si guadagnava la reputazione di istruito e quando la gente minuta udiva nominare il principino di Mirabella tutti dicevano «Quello che ora fa il letterato?» Una bella mattina, tra le stampe che la posta gli portava a Cataste, ricevette da Palermo il primo fascicolo dell'Araldo Sicolo, opera storico-nobiliare del cavaliere don Eugenio Uzena di Francalanza e Mirabella. Come lui, tutti i parenti sottoscritti i circoli ne ebbero un esemplare. I fascicoli, dove si iniziava la storia delle singole famiglie, andavano a ruba. Don Eugenio, in verità, si limitava a trascrivere il Mugnos e il Villabianca, infiorandoli di locuzioni di sua particolare fattura. Donna Ferdinanda, pertanto, diventava paonazza dall'indignazione. E anche Consalvo nutriva un profondo disdegno per quel parente che non solo prostituiva in tal modo se stesso, ma discreditava tutta la casta. Il principino, però, al contrario della zia, teneva per sé i propri sentimenti e manifestava solo quelli che gli giovavano. Sentiva di dover fare in politica come aveva visto fare a suo padre in casa, quando si teneva bene con tutti e secondava le pazzie di tutti i parenti, salvo a dare un calcio a chi non poteva più nuocergli. Adesso adoperava quel metodo in grande, piaggiando tutti i partiti. Monarchia o repubblica, religione o ateismo, tutto era per lui questione di tornaconto, materiale o morale, immediato o avvenire. Thank you. Il principe Giacomo tardò molto a riaversi interamente dal colpo che l'ultima spiegazione col figlio gli aveva procurato. Minacciato di una congestione cerebrale, si condannò da se stesso, per il terrore di morire di subito, a una dieta magra che gli impoverì il sangue. Debole, irritabile, divenne più di prima il terrore della casa e, attribuendo più che mai il proprio male al pestifero influsso del figliuolo, non soffriva più d'udirlo nominare. Nei primi tempi, se Baldassarre o qualcuno dei lavapiatti o della servitù alludeva al principino, egli esclamava «Salute a noi! Salute a noi!» e ingiungeva alle persone di tacere, di smettere immediatamente, rosso in viso, come se davvero fosse per morir soffocato. Teresa ne soffriva più di tutti. Una delle cose che più facevano piacere alla principessina era l'udir parlare del fratello in quella casa dove non si poteva più nominarlo. Farne le lodi, vantarne l'intelligenza, la serietà della conversione, era il miglior mezzo per guadagnarsi il cuore della sorella. E Giovannino, rammentando i tempi del noviziato e le mondiate commesse a San Nicola, profetava con Salvo il più lieto avvenire e andava apposta a fargli visita per riferire a Teresa d'averlo trovato intento allo studio. «Sapete, cugina», le disse una sera, «con Salvo». «Shh!» esclamò piano Teresa, giungendo le mani. «Il babbo!» Infatti il principe passava in quel momento vicino ad essi, dirigendosi verso la duchessa. «Vogliono con Salvo», riprese Giovannino all'orecchio della cugina, «consigliere comunale, vedrete che risulterà dei primi». Benedetto Giulente, come aveva promesso, fu il padrino del candidato. Egli non sospettava di preparare il terreno ad un rivale. Gli pareva che un posto nella rappresentanza civica bastasse all'attività e all'ambizione del nipote. Tutt'al più con Salvo avrebbe potuto prender parte più tardi all'amministrazione municipale, essere eletto assessore e, chissà, un giorno nominato anche sindaco. Che aspirasse al Parlamento né sospettava né credeva possibile. Giulente credeva che la conversione del nipote fosse in gran parte merito proprio e ne andava naturalmente altero, e si credeva destinato a guidare ancora per lungo tempo l'erede degli Uzeda nella vita pubblica. L'attitudine ossequiente del giovanotto lo confermava in questa fiducia. Ad aprirgli gli occhi non valse l'esito delle elezioni amministrative. Egli stesso era tra i candidati, avendo finito il suo quinquennio, e con Salvo si presentava per la prima volta. Con Salvo fu eletto il secondo, subito dopo lo zio Duca, sempre primo. Giulente ebbe il decimo posto. Alla prima riunione del consiglio riconvocato, il principino venne severamente vestito d'una redingote tagliata all'inglese, con cravatta nera e cappello alto. Appena si presentò l'occasione di parlare, l'acchiappò al volo. Raccomandò il sistema di Londra e suggerì al sindaco l'idea di scrivere al Lord Mayor, che è il primo magistrato civico della capitale inglese. Il discorso ebbe un bel successo. Pochi osservarono che quel giovanotto di primo pelo aveva l'aria di far la lezione. Quasi tutti ammirarono la facilità della sua parola e giudicarono che il principino di Mirabella era davvero un giovane istruito. Egli continuò a parlare ogni giorno. Per la discussione del bilancio pronunziò una trentina di concioni, una più sbalorditiva dell'altra. Sulla questione della dote al comunale tirò in ballo Sofocle e Euripide, gli odei della Grecia e i circhi romani. Sul capitolo del Camposanto arrischiò quest'idea. «Io veramente non sarei alieno dal concetto storicamente più estetico e scientificamente più razionale della cremazione». Ma unanimi, vivaci proteste di una dozzina di consiglieri clericali lo fecero accorto che sbagliava strada. Lì dentro e nel paese i clericali erano una forza con la quale bisognava patteggiare. Già essi avevano notato che il principino, imbandierando e illuminando la sua casa per tutte le feste costituzionali e democratiche, pareva non accorgersi delle solennità religiose, della festa di Sant'Agata specialmente. La celebravano come sempre due volte all'anno, in febbraio e in agosto. Ma un'amministrazione libera pensatrice, giudicato che una sola gazzarra bastasse, aveva soppresso dal bilancio l'assegno per la festa estiva. Questo fu il segnale di una specie di guerra civile. I campioni liberali facevano grandi sfoggi d'eloquenza, ma erano fischiati di santa ragione. I clericali, quasi tutti poveri oratori, erano invece portati alle stelle. Il duca d'Oragua non parlava, come non aveva mai parlato, ma si sapeva che avrebbe votato a favore. Giulente in cuor suo era contrario, ma per far la corte allo zio avrebbe votato come lui. Con chi si sarebbe messo il principino? C'era una gran curiosità di saperlo. Pertanto, il giorno che gli parlò, una folla tripla del consueto si stipava nell'angusta sala e tendeva le orecchie dalle contigue. Egli cominciò a parlare in mezzo a un silenzio profondo. Calmo in mezzo alla tempesta, data un'occhiata alle carte che teneva dinanzi, Consalvo cominciò, dominando il tumulto con voce squillante. Consideriamo per un momento accertato che la volontà del paese è per la festa. Noi, suoi delegati, quale altro obbligo avremo se non quello di tradurla in atto? E mi scusino i miei colleghi che siedono a quei posti, additando i liberali più avanzati. Io comprenderei che a questo concetto si ribellassero tutti gli altri, ma mai essi, i quali fanno consistere nell'imperativo categorico uno dei punti più salienti del loro programma. Nel silenzio che tornò a regnare tutto intorno, egli cominciò allora una lezione sul libero arbitrio, citando il celebre Aristotele, l'illustre scuola scozzese e nominando un grand'uomo tedesco, inglese o francese ogni mezzo minuto. Il peso di quel discorso schiacciava l'uditorio, ma egli si era già guadagnato il cuore della folla e la sua erudizione non poteva se non farlo ammirare di più. «Anch'io voterò la festa», formidabile scoppio d'applausi. «Ma il mio voto non pregiudica i miei principi», nuovi applausi. «In quest'aula vi possono essere clericali, cattolici, atei, protestanti, ebrei, turchi, se volete, ilarità». E siete proprio sicuri che io non segua la dottrina di Maometto? Nuova ilarità. Ho letto il Corano, che è il Vangelo degli islamiti, e se davvero esiste il paradiso dell'Uri, forse più d'uno fra noi si convertirebbe alla fede ottomana. Scoppio di risa generali. Ormai ad ogni periodo gli applausi scrosciavano come gragnuola, e quando egli cominciò a dimostrare per quali interessi, legittimi, rispettabili, onesti, tutte le classi della popolazione volevano la festa, l'ovazione si mutò in trionfo. I festaiuoli per poco non lo portarono a braccia per le vie. Gli stessi oppositori dovettero riconoscere la sua abilità. Giusto per la festa, in casa del principe ci fu un grande ricevimento. La duchessa coi figliuoli arrivò tra i primi. Giovannino, presa a parte Teresa, le diede la notizia della nomina del fratello. Saliva dalla via un rumore come d'alveare, tanta era la folla, e il campanone del Duomo, coi suoi rintocchi lenti e gravi, pareva batter la solfa alle campane della badia, della collegiata e dei minoriti. «Viva Sant'Agata!» Tutte le signore si inginocchiarono. Teresa, prostrata col capo basso, gli occhi fissi alla santa, fece il segno della croce. E a un tratto sentì prendersi, premersi, stringersi forte la destra. Era Giovannino, inginocchiato al suo fianco. I fuochi cessarono a un tratto e l'urlo degli evviva salì al cielo. Allora, dolcemente, lentamente, dopo aver risposto alla stretta di Giovannino, ella liberò la propria mano. E nel silenzio, rifattosi a poco, s'udì una voce che gridava: «Ma siete insorditi!» Era il cavaliere Don Eugenio, arrivato allora all'ora. Sindaco a 26 anni. E dove si è visto? Bisognerà dargli nello stesso tempo un aio. Avremo l'amministrazione delle balie. Ma le satire non attecchivano, tanto entusiasmo animava i partigiani di Consalvo Uzeda. Egli adesso non studiava più, giudicando sufficiente la sua preparazione, accorgendosi del resto che nella scienza principale, quella di gettar polvere agli occhi, era già maestro. Il suo tormento era tuttavia il contatto con la gente e le cose. Riceveva le persone con le mani in tasca per non aver da stringere le altrui, o le stringeva coi guanti che poi gettava via. Firmava i fogli tenendo la penna con due dita intanto che un impiegato li tratteneva perché non gli scorressero sotto. E quando lasciava il palazzo di città faceva chiudere il suo seggiolone in un ripostiglio perché nessuno avesse da sedervisi sopra. Un giorno che non fu trovata la chiave, restò 6 ore in piedi. E il suo terrore erano certi impiegati poco puliti, coi capelli lunghi e le unghie nere. Sbuffava, esclamando: «Non vi buttate addosso alla gente!» mentre gli parlavano di cose di servizio o gli riferivano lo stato degli affari in corso. E invece di rispondere alle loro domande, usciva inaspettatamente in un «Ma tagliatevi quella zazzera!» oppure «Lavatevi un po' le mani!» Come se tutti potessero passare la giornata allo specchio, al pari di lui, mormoravano i rimproverati, dandogli dell'aristocratico, del superbo, dell'infinto, poiché a sentirlo tutti gli uomini erano fratelli, fatti per sedersi sopra una stessa panca. Il principe, invece, che negli ultimi tempi era tornato a star male, guarì come per incanto e manifestò il proprio contento parlando quasi urbanamente con le persone, chiedendo perfino notizie di «Salute a noi!». Qualche settimana dopo, nonostante il caldo della stagione, la principessa andò attorno alla figliuola, facendo grandi acquisti di biancheria. Poi chiamò delle donne che si misero a cucire e a ricamare servizi d'ogni sorta. «Lavoriamo per la principessina!». Baldassarre gongolava, annunziava il matrimonio senza tante reticenze. La cosa era sicura ormai. Il principe non andava tutti i giorni a casa della duchessa per regolar gli interessi? Poteva essere questione di settimane e tutto il parentacolo avrebbe avuto comunicazione del lieto avvenimento. Infatti, un giorno, a proposito di certe coperte da letto tra le quali non riusciva a scegliere, Teresa disse alla matrigna: «Faccia Vostra Eccellenza, per me sono tutte belle. Devo forse usarle io? Non capisci che si tratta di te», rispose la principessa. Una viva fiamma salì alla fronte di Teresa. Ella trattenne il respiro ed abbassò le ciglia. «Vieni qui». E attiratala sul cuore, donna Graziella cominciò: «Si tratta di te, del tuo matrimonio. È venuto il momento di farti felice. Credevi che tuo padre non pensasse a te. Tanti mari, tante cure. Ma adesso faremo tutto presto, vedrai». E stampatole un bacio in fronte, mentre le reggeva il capo con tutte e due le mani, esclamò: «Sei contenta di divenir duchessa?» Lasciatasi cadere sopra una seggiola, Teresa nascose il volto tra le mani e scoppiò in pianto. Fin dal primo momento ella aveva sentito, col cuore stretto, che tutti i suoi rifiuti sarebbero stati invano, che se avevano deliberato di darla al primogenito, ella doveva a qualunque costo accettarlo. E le melate parole della madrigna, che le diceva, giungendo le mani: «Se avessi saputo, ma perché non hai parlato? Adesso che tuo padre ha combinato ogni cosa», la confermavano in quella sconsolata fiducia e facevano raddoppiare il suo pianto. Parlare? A chi? E a che scopo? Se in quella casa non c'era confidenza, se tutti stavano in guerra, unicamente curati del proprio tornaconto, se l'avevano abituata a cedere in tutto e poi cullata nella fiducia che l'avrebbero fatta contenta. Poteva ella supporre che avrebbero scelto da loro, senza consultarla, e che un giorno sarebbero venuti a dirle: «Sai, bisogna che tu sposi chi non ti piace?» E perché poi? Perché volevano darle quell'altro e non chi aveva il suo cuore? «Per il tuo meglio», esclamava la madrigna. «Abbiamo fatto questo per il tuo meglio. È il primogenito. Sarai duchessa. I tuoi figli avranno due titoli da dividersi, mentre con l'altro non ne resterà loro nessuno. Ed è anche più ricco. Non molto, è vero, ma c'è tuttavia una differenza. E la figlia del principe di Francalanza non deve sposare un oscuro secondogenito come una qualunque». Che le importava di ciò? Se ella aveva dato il suo cuore a Giovannino, se non aveva mai pensato che l'altro fratello, così grossolano, così brutto, potesse essere suo marito. La notizia cominciò a trapelare tra i parenti. I più giudicavano sciocca Teresa, che preferiva il barone al duca. Alcuni la sostenevano, con Salvo tra questi. A lui non importava un fico secco della sorella, ma per dar prova di sapere e di democrazia, «Vedete la forza del pregiudizio?» esclamava. «Vogliono dare mia sorella a un cugino», e giù una lezione sui matrimoni tra consanguinei. «Ma tra i due le danno quello che non vuole, quello che non le piace. E perché? Per una differenza di parole, duca o barone». L'avversione della zia Ferdinanda e di Lucrezia ebbe un nuovo alimento. Quella sciocca preferiva il secondo genito al primo, si opponeva alla volontà del padre. E il padre, che non aveva saputo educarla a un'obbedienza più cieca.